I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Sbaglierebbe chi archiviasse come rito privo di significato quanto emerso ieri dalle audizioni della Banca d'Italia e della Corte dei Conti al Parlamento per commentare i numeri presenti nel documento economico-finanziario presentato dal governo e che servirà come base per la manovra finanziaria o legge di stabilità 2017. Sbaglierebbe perché in realtà le preoccupazioni della Banca d'Italia, al di là della forma con cui sono espresse, ci sono e sono anche pesanti. Il vice direttore Signorini ha infatti ricordato che l'obiettivo che il governo si è dato quanto a crescita economica nel 2017 è ambizioso, il che vuol dire tutt'altro che scontato. E anche ieri la Confindustria ha ricordato come la produzione industriale a settembre veda un modestissimo recupero. Ma è importante anche la seconda parte del ragionamento della Banca d'Italia. Se è ambizioso l'obiettivo del governo di portare il PIL all'1% nel 2017, allora sarà indispensabile proseguire con sempre maggiore determinazione sulla strada della spending review, la revisione della spesa che, come un'alba fenice, appare e scompare in questi mesi, perché altrimenti l'unica altra alternativa sarà quella di ridurre ulteriormente gli investimenti, il cui rilancio, conclude la Banca d'Italia, è invece necessario proprio per far ripartire la crescita economica. Insomma, con un sentiero così stretto è importante che il governo applichi, se permette, la logica della massaia: spendere un po' di meno e spendere meglio. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.